qualcuno sul canale 10? Che canale 10? C'è qualcuno canale 10? C'è qualcuno all'ascolto? C'è qualcuno sul canale 10? C'è canale 10? C'è qualcuno che ascolta? C'è 10? C'è qualcuno che ascolta? C'è canale 10? C'è qualcuno all'ascolto? C'è canale 10? Marco, ci sei in ascolto? C'è canale 10? C'è qualcuno? Attento Claudio, ci sei in ascolto? C'è canale 10? C'è qualcuno che ascolta? Tutti molti siete? Avanti, sono così, o sordo da balla, ma non rispondi, o sordo da balla che ti cacciani, ma non rispondi. Qualcuno su canale 10? Ciao Giulio, buonasera. Ti sei avanti? Mi senti Giulio? Oh, ciao Fra. Sì, che ti sento. Stai acceso. Se ogni tanto chiamavo, ma adesso hai risposto tu e mi fa piacere. Sai che l'ho una cordatina, chiedo un po' che non... Eccoci qua. Facendo bene sempre, sì, uguale, come prima? Sì, sì, va benissimo. Anche tu, dai. Siamo usando delle scariche fortissime, elettriche, non so cosa siano, E io esco, pronto, esco, entro, esco, esco, esco, esco. Ehi, Luca, sei tu? Sul super amplificato. Eia, ciao. Ciao Luca, come va? Tutto bene? Come fra, tutto bene. Tutto bene, tutto bene. Avanti Giulio, e tu? Sì, tutto a posto. Sono sempre in attesa che mi chiamino, però così apparentemente io sono tranquillo, poi si verrà. Non è poco, dai. Mi devono chiamare per fare il controllo, mi devono chiamare dalla clinica e avevo già fatto gli esami un mese fa e ancora non mi hanno chiamato. Sto aspettando. Diciamo io fisicamente mi sento abbastanza bene e spero anche oltre al fisico che sia tutto a posto, chi lo sa. Ma sì, dai, speriamo bene. C'è una bella arietta, ho aperto la finestra e finalmente un po' d'aria fresca sta entrando. Sì, e beh, stasera c'è uno piccolo venticello che piace. Ciao Luca, avanti. Sì, ciao giù. E allora, finite le fedi, ragazzi. Le fedi già sono finite. Forse abbiamo parlato assieme, ti ho detto vai Giulio, vai. Riprendi giù. Infatti ho lasciato un attimo il bianco, ma forse le prese Franco. Per cui, va bene, dai, comunque, già va bene così. Al momento siamo tranquilli, poi, chi lo sa. E tu fa? Io ogni tanto si risveglia quel calcolo, anche stamattina un po' si stava muovendo, deve essere, che stavo usando un'attrezzatura che vibra un po', quindi le vibrazioni forse fanno muovere i calcoli, capito? Ah, ci stai spegnendo, ce l'hai? No, io bene, sinistro. Io ci stai spegnendo, io sono a giorno, in questi giorni sempre seduto nel gabinetto. Guarda, c'è un'altra cosa che non posso mangiare. Ci entro in bagno 3-4 volte, ma devo prendere una decisione per operarmi, altrimenti è un casino. Sto rischiando, è di brutto anche. No, io uno l'ho già espulso, uno da un centimetro, un calcolo della nave, però dentro ce n'è un altro che è delle stesse dimensioni che apparentemente era fermo. Infatti ho detto, se non si muove lo lasciamo così, se no se la fatica bisogna bombardarlo, ci vuole un intervento. Così penso, cose brutte, no, io ho fatto un dolore, fa proprio fa male, lo schiacciano la pancia. Non lo so, vabbè, ma comunque uova non le sto mangiando, latte normale. prendo più, ma sto prendendo quello senza lattosio, pure lo va fritto ogni tanto, l'unica morte di baba proprio così da Sassari. Mi ha sconsigliato anche di bere, però la birretta, ma la bevo, sono sincero, anche più di una, ma senza andare oltre, senza, cioè, ubriacarmi. Adesso vediamo, vediamo un po', cerco di quest'anno, lascia con la rinfresca un po', è meglio, e così mi faccio operare, via, almeno sono meglio. Sicuramente, anche io qualche birretta già me la bevo ogni tanto, dai. Ma dico che per i calcoli renali è un po', non dico che faccia bene, ma è diuretica, quindi ti fa andare in bagno la birra, che in teoria ti aiuta un po'. Non so, quando vai a urinare fa male, fa bene, però il mio è diverso, ma vabbè, il mio è, diciamo, più pericoloso, dai. Perché se vai in peritonite è un casino. Io quando qualche anno fa è nato un blocco renale, è uguale, il pericolo c'è lo stesso, perché non è, come si dice, il rene va in dilatazione, si dilatta perché non riesce a sfogare, ed è pericolosissimo lo stesso, è tutto, siamo delicati, siamo una macchina delicata che se non funziona tutto sono dolori, così è giù. Sì, credo proprio di sì, purtroppo succedono queste cose. Luca, cosa devi fare? Quello è l'intervento da fare anche in fretta, perché la cistatella non si scherza, guarda, non si scherza. Io lo so, voglio anni fa, 2, 3 anni, forse 4 anche, è stata operata mia moglie dalla cistatella, gliel'hanno tolta, aveva un calcolo, tu immagini una noce, così grande. E dunque, infatti qui ha problemi adesso anche nell'alimentazione, tipo ad esempio mangiare la pasta asciutta col sugo, bisogna mangiare quasi di sempre in bianco, non può esagerare in certe cose. Bisogna farlo, fatelo fare subito Luca, perché è importantissimo questo, se no poi si possono complicare le cose. Vabbè, avanti Luca. Non so, che poi hai dei problemi. Infatti tu io manca di importante, invece c'è un battimento dai vicini, da Marchisio, Gio Maria, che arrivano due forti. Purtroppo un casino Giulio. Io ero pronto, poi loro mi hanno mandato via, perché non so, c'erano più urgenze, io ero niente in confronto. Però ogni tanto già si mette in moto, dai, male si sposta, è un casino. Tipo, ti faccio un esempio, se mangio, perché l'ho notato più volte, mangio i lumaconi, quelli di allevamento, se li fa il padre di Marina, no? Se li fa a ripieno, no? C'è l'uovo e mezzo, e quelli mi fanno mal di pancia, perché l'ho notato io, quando è? Di domenica, mi sa, o sabato, mi hanno invitato, li ho mangiati, erano buonissimi, però il pomeriggio mi è venuto mal di pancia, ho dovuto prendere una bustina per farmelo passare. Sì, ma è così, in effetti è così. Certo, guarda che stiamo parlando del fegato, non stiamo parlando di una cosa di poca importanza, per cui quella è una cosa da fare subito, urgente. Perciò date da fare, fate ricoverare, fate mettere in lista, perché quando si mette in lista poi passa un sacco di tempo prima che si chiamino, per cui non ti trascurare, sollecita, vai, perché è importantissimo. Il calcolo renale è diverso, vedi, i calcoli renali sono sempre molto ma molto fastidiosi, anche quelli, dolorosissimi, questo lo sappiamo benissimo. Però quella dell'ACSFL è diverso, il calcolo lì è diverso, quello è pericoloso addirittura. Vabbè, avanti fra. E poi questi lumaconi sono un po' pesanti, per forza, c'ha ragione il fegato poverino, Luca. Cosa fra? Dico, tu anche tu ti mangi questi lumaconi ripieni, poverino il fegato ne risente. Lo so, però cosa vuoi fare? Adesso vedi, stavolta c'ho i pulpi, ho paura. Infatti con le patate, aglio e prezzemolo, peperoncino, cosa faccio? Non mangio più, cavolo, le cose che mi piacciono le posso mangiare. Sto attento, diciamo, là, ripeto, con la bevanda mi hanno detto di non bere, ma non bevo molto io, forse per me, guarda, avrebbero già fatto. detto, i circoli, i bar e i negozi. Non lo so, adesso lo vediamo, appena rinfresca un po' Giulio, ci riprovo, vediamo un po'. E mi faccio ricoverare, cioè, faccio di nuovo i controlli, devo fare di nuovo le analisi, tutto. Ci vado, devo fare di nuovo anche l'ecodoppler, per controllarmi un po' come sono messo. Perché il dolore ce l'ho, non è fisso ma ce l'ho. L'ecodoppler, mille cose dove fare là. Ehi, vabbè, già ho capito comunque. L'ecodoppler non è che non è l'ecodoppler, lo si fa allo stomaco. Allo stomaco si fa qualche cosa che adesso non mi ricordo come si chiama. Vabbè. Comunque già ho capito. Sì, ripeto, quello è una cosa molto pericolosa. Molto. Non ti spaventare, però è una cosa che devi fare prima possibile. Innanzitutto perché continua a crescere il calcolo. E poi il calcolo con i soliti tre buchetti che ti fanno nella pancia per entrarlo possono non bastare. Perché? Perché se si ingrandisce molto ti tagliano per toglierlo. E questo te lo possono garantire. Guarda, l'ho fatta mia moglie, te lo sto dicendo. Grande come una noce e non è stato possibile toglierlo con i tre buchettini. L'hanno dovuto fare un taglietto per toglierlo. Uno calcolo quanto una noce. E fate festa che ce l'ha anche conservato, perché gliel'hanno dato poi in ospedale. Tenga, se lo conservi. Gliel'hanno dato. Per carità. Sono a vederlo, lui. Vabbè, comunque. È andata così, però adesso sta bene, la verità. Però è costretto a mangiare quasi sempre in bianco. Lì tutte le volte che esagera un attimino con delle cose, tipo che so io, se mangia la pasta asciutta col sugo, può dare fastidio. Oppure altre cose, anche ad esempio le melanzane alla parmigiana, lo stesso. Tutte queste cose qua possono dare fastidio. Pensiamo che mangia lì quasi tutto in bianco, quasi tutto in bianco, incominciando dalla pasta. Va bene, avanti, fra. Siamo come tipo le ostre che mi produciamo le perle all'interno. Sì, purtroppo è così. Anche mio cognato è stato operato di cisterpelle. Anche lui o Luca, lui infatti per mangiare certe cose prende la pastiglia, però non è che puoi stare tutta la vita prendendo la pastiglia per lo stomaco, no? Caspita, per cui se no anche lui ne avrebbe risentito mangiando certe cose. Adesso che non ha vizi, non beve, non fuma, niente, però se dovesse mangiare qualcosa di pesante, come il tuo esempio le uova, oppure una cosa condita in un certo modo, non lo può mangiare, si deve prendere la pastiglia, perché se no poi si sente male. Avanti, Luca. Lo so, ma io ripeto, mi do una regolata. Tipo sul fritto, vedi, io ne ho abusato prima, perché c'era un giorno che mangiavo battoncini, poi domani battoncini non ne mangiavo sofficini, e poi patatine fritte, e uova fritte, ne ho abusato troppo, dai. E adesso sono anni che non mangio uova, io sono 2-3 anni, boh. E dopo, adesso vediamo un po' cosa mi dicono, perché ho tutto, tutte le visite che ho fatto, sono anche pagate. Oltretutto che sono disoccupato, ma glielo fate pagare. Se succede anche quello, lo so, purtroppo così. Se vuoi visitarti subito ti devi andare a pagamento, perché se aspetti che ti mettano in lista lì, passano mesi e mesi, passano, se non addirittura qualche annetto, prima di chiamarti. Perché? Perché ci sono sempre delle urgenze, loro dicono, loro si difendono in questa maniera, dicono ci sono delle urgenze, gente che ha bisogno di essere curato subito, e allora ci sono quelli che aspettano anche qualche annetto alle volte. E vabbè, comunque è così. Dopo aver fatto la cura, io l'ultima che ho fatto adesso un mese e mezzo fa, dai, avevo finito la cura il 18 fu il 25, sempre dello stesso mese, cioè il mese scorso, mi hanno chiamato per fare le analisi, perché poi mi avrebbero dovuto chiamare subito, entro il mese di agosto mi hanno detto, ma oggi ne abbiamo già 26 e ancora non ho ricevuto nessuna chiamata, per farmi l'ulteriore controllo e vedere un po' come è andata la situazione, la cura, eccetera. Sto aspettando, per dirti, oh, tu non hai idea, quando io l'ho recuperato, guarda, ti posso garantire, Luca, che c'erano i pazienti e li buttavano giù dal letto per mandarli a casa, perché c'era subito un altro pronto che aveva necessità di, del letto, per dirti, oh, come la storia, poi è una vergogna, ma comunque. Molti cosa fanno? Si fanno ricoverare tipo d'urgenza, mi chiamano un'ambulanza, accusano dolori e riescono forse a fregarne qualcuno, dai, in anticipo, Luca, capito? Poi mi dirai se sei a casa tua o se sei da un'altra zona. No, sono zona Santa Maria di Pisa, non sono a casa. Che segnale era diverso per quello che ti ho fatto questa domanda. Hai capito come fanno? Si fanno ricoverare d'urgenza e poi saltano la fila. Sì, lo so. Purtroppo dice che il mio è urgente, però bisogna farlo. Ma cosa adesso? Ma poi, alla fine, poi c'è avuto dei problemi. A me piace la pasta asciutta con vita, Giulio, non è che, cioè, mi dà la pasta asciutta in bianco, a me non te la mangio. Allora, faccio un esempio, quando fa il condimento, no, che la fa giusta, senza esagerare, cosa faccio? Faccio un'altra passatina di sugo sotto, un'altra passatina di formaggio, una spolverata di formaggio, poi giro il tutto e mangio, altrimenti non ci prendo gusto. Lo so, a tutti piace mangiare, Luca, a tutti. Non c'è solo persona che non piaccia mangiare con gusto, però quando hai certi problemi non te lo puoi permettere, se vuoi stare bene. Diversamente, te lo sto dicendo, devi ricorrere sempre alle cure, e cioè a qualche pastiglia per evitare magari quel mal di stomaco che ti viene, quel mal di pancia. Vedi, quello che ha detto Franco è una mossa intelligente, tu fai finta di, visto che se non ti chiamano subito, fai finta di sentirti male, chiamo l'ambulanza e ti fai portare l'ambulanza. Tu lamentati, loro quando ti visitano si accorgono del fatto di quello che hai e ti ricoverano. Se no ti aspetti, caro mio, vuol dire ti giocherai queste 30 euro per l'ambulanza, ma non sono niente, considerando la salute che ti vuoi prendere. Ecco qual è il discorso, così devi fare. Fai così, quando proprio non lo puoi più, che non ti chiamano, c'è un'ambulanza, mi sento male, così, non lo so, e ti portano lì. Quando ti portano lì, allora sì che ti ricoverano veramente urgentemente. Se no, campo a cavallo che l'erba cresce. E così è, tanto non è che stai dicendo fesserie, cioè i dolori ce li hai davvero, quindi devi solo un po' accusare un po' di più, accentuare il problema e vedere che già lo risolvi. Lo so, bisogna fare così, ma io già è capitato che sono andato con dolore forte alla pancia lì al pronto soccorso alle 2 di notte, ma qualche anno fa, non sto parlando adesso. Niente, adesso aspettiamo un po' che rinfreschi, vabbè, poi se mi viene il dolore faccio un metro giù, chiamo un'ambulanza e via, e altrimenti non è capopiede, lì ne hai da aspettare. Se hai conoscenze magari riesci, ma se non hai conoscenze bisogna fare come ha detto Giulio, chiamare un'ambulanza e niente, lamentarmi che mi fa male la faccia, non è lamentarmi, guardi mali, non è fastidioso, ce la posso anche sopportare, ma alla fine è meglio farlo così, fatto, non ci penso più. Poi per mangiare vedrò in seguito, prima penso a fare quello che devo fare. Diciamo che ti chiedi di buttare giù all'ospedale. Quello non è un problema, se ti buttano giù i chili, anzi, quello è un vantaggio, tutto sommato. Ma io mi ricordo 8 anni fa, quando io sono stato operato all'appendicite, sono stato dalle 8 del mattino, mi hanno ricoverato la sera alle 7 ed ero tutto santissimo giorno lì in ospedale. è stato male, ma male veramente. Sono stato lì e poi mi hanno tenuto un mese, circa un mese, per esattezza 28 giorni, e non riuscivano a trovarmi il problema. Mi avevano fatto tutte le visite, tutte indistintamente, anche la TAC, tutto, tutto, cosa vuol dire tutto? Non mi ricordo nemmeno come si chiama, insomma dappertutto mi hanno visitato più volte, ma alla fine non hanno trovato niente, allora hanno deciso di farmi questa laposcopia, si chiama, mi hanno fatto tre buchi in pancia, hanno entrato questa specie di telecamerina e hanno visto nel monitor che cosa avevo, che cosa era, l'appendicite. Premesso che poi io non avevo più nessun dolore, però avevo una parete nel fianco, la parte bassa del ventre, che era molto dura. E loro dicevano, no, non è normale. Beh, tramite questa operazione che hanno fatto pure, proprio perché volevano sapere realmente che cosa avessi, allora hanno capito che avevo l'appendicite. E a momenti va in peritonite, ma che lo 20 lì e oltre con questo coso qua, con questo problema, per dirti, Luca, e sono arrivato, mi hanno preso praticamente per i capelli lì, quei pochi capelli che avevo, anche se adesso ne ho anche di meno. E vabbè, avanti, Ofra. Vabbè, l'importante è che siamo qui a raccontare le nostre vicissitudini, dai. Perché come pesa, come sei? Ma non sei robusto tu, Luca? No, sono alto 1,77, 78 circa, di peso sono intorno ai 76, dai, qualche chilo è andato via, non so come ma è andato via, peso 80 io, però il discorso è che anche io li ho sentito giù, lo sai che allora mi stavano raccontando dietro, parlando con un tipo di socio, no? Praticamente il padre è morto per cioè è andato in peritonite l'appendicite, cioè, non mi ricordo cosa mi stava raccontando, ed è morto a 56 anni, giovane anche, per dire, ma bisogna farne questo, ecco, io sono un bel fifone, però purtroppo se ne abbiamo bisogno bisogna farle, altrimenti rischiamo solo e basta. Ripeto, io già sono sotto controllo perché le viste le ho fatte, poi loro hanno detto che non è roba urgente, questo me l'ha detto il dottor Spartà, forse lo conosci, un chirurgo questo qua, all'ospedale civile, e per quanto riguarda le analisi sono a posto. Sì, ma una è le analisi, l'altro è il problema, le analisi è un discorso, Luca, il problema del calcolo è un altro, questo è da tenere in considerazione, per cui devi sempre farti controllare, tu dal tuo dottore magari ti puoi fare una ricetta di urgente, ricovero urgente, che però vi esprimo con questo, se poi non ti fanno ricoverare, allora fai come ti ho detto, verrai che ti ricoverano subito. Chiama l'ambulanza, vai vita di sentiti un bel mare e così verrai che ti ricoverano subito, immediatamente. Quando te lo fanno comunque anche alla clinica universitaria, con l'operazione lì. No, la fanno anche all'ospedale civile, certo, ma poi dopo che ti piace vai, non è un problema, e te lo fanno tranquillamente. Per cui, comunque è una cosa fattibile, guarda, non soffri niente, non avere paura, ma che tanto ti rompere, non senti niente. È così, Luca, non ti trattenere, perché la cistifene è una cosa molto ma molto delicata e può andare in peritonite come stavi dicendo tu. Per cui se vai in peritonite non è solo quello il problema, perché poi si aggiunge il pancreas, un sacco di problemi insomma. Per cui devi insomma darti da fare. Vai, E così mi hanno fatto un po' furbetti, accusare, vai lì piegato in due, vedrai, poi se vai in ambulanza è ancora meglio, ricordo l'urgenza. Le sai le dimensioni di questo calcolo? Luca. Allora, ne ho 10, però i millimetri, mi sa, non mi ricordo. Comunque ho 10 calcoli, sono grandetti comunque, così mi hanno detto. C'ho anche il... quando ho fatto la visita lì, tu pensa, dovevo farlo non so quanti mesi, dovevo passare, però poi tramite la mia ragazza, no, la, il cugino che lavora in un posto, dove non posso dire dove lavora, è tempo di fare un 10 giorni l'ho fatta, sono passati mesi e mesi, praticamente sono stato a dieta, diciamo, ora non devo mangiare né frutta, né verdura, né legumi, e più devo prendere queste pastiglie per sgonfiare, per levare l'aria, sono c'ho il nome, ce l'ho ancora comunque queste pastiglie, e niente, c'ho anche il CD, il DVD dove ci sono le foto e ci sono i calcoli, ci vedono i calcoli. E hai fatto un'ecografia, dai, con l'ecografo, ti ha messo quel gel e poi ti premeva sullo stomaco e poi ti ha stampato le foto, dai. Esatto, l'ecografia, infatti no, non li hanno molto voluti vedere, se tu hai il CD o il DVD che sia, ci sono tre foto dentro, no, infatti poi quando sono andato io che c'avevo il dolore un po', mi ha fatto sdraiare, mi ha schiacciato un po' la pancia, ti fa male qua, ti fa male qua, siccome il mio medico lo stesso è un, come si chiama, è un medico chirurgo, no? Ha controllato anche lui, infatti quando mi ha toccato tutta la parte bassa, diciamo, la pancia, nel punto giusto dove c'è il fegato, sono lì comunque il fegato, praticamente c'avevo il dolore, infatti come lui andava a schiacciare mi faceva male, poi alla fine mi ha detto c'è i calcoli, fatti dei controlli perché devi levarli subito, ma sono passati anni, vabbè, non hai seguito il suo consiglio, dai, quindi tu dai, dipende da dai dolori, se riesci a sopportarli, però prima è meglio, come dice Giulio, poi crescono, sono delle pietre che calcificano, giorno dopo giorno si accumulano queste sostanze e diventano sempre più grandi. Già lo so, babbo, da questo passo io ne approfitto e vi saluto, che vado a cenare. Ciao Giulio, ciao Franco, mi ha fatto piacere dopo tanto, anche tu eri sicuramente in ferie. Io ogni tanto accendevo ma non c'era nessuno, anche da casa, niente, zero. Babbo, da, buona cena, ma non la fate, alla prossima, ciao. Ok, ciao Luca, ciao, ci sentiamo. Date da fare comunque, non ti trascurare. Ciao, salutoni, alle prossime, avanti fra. Capa, salutoni Luca, alle prossime, buona cena, buona carica, salutoni a tutti. E così, dai, sì, anche io ero in ferie, ero Alghero, dai. Sono stato anche 4 giorni a Napoli, ho fatto un giretto per accompagnare un paio di signori, i miei suoceri. Abbiamo regalato per il compleanno un viaggio a Napoli e noi per non lasciare soli li abbiamo accompagnati. Hai fatto bene, fra, già è una cosa piacevole quella. Hai fatto bene, ogni tanto bisogna attaccare la spina. Beh certo, ma io ripeto non mi sono potuto muovere da nessuna parte perché sono sempre in attesa che mi chiamino praticamente dal mese scorso, dal 25 del mese scorso, e per cui non mi sono potuto muovere da nessuna parte. E invece mi hanno fregato almeno fino a questo momento e non mi hanno chiamato. Adesso vediamo un po' questi ultimi giorni, anzi quasi quasi domani ci vado e vado direttamente in reparto a sentire come sono messo, come posizione di chiamata, per cui, perché intanto se io dormo loro sognano. E allora, bisogna sempre stare lì a pungere, a svegliargli il sonno a questi qua. Beh certo, perché è così, l'avevano detto che mi avrebbero chiamato entro agosto. Infatti dopo che avevo fatto gli analisi sono andato direttamente a reparto e ho chiesto, magari può essere che lo chiamiamo anche per Ferragosto, ma a Ferragosto non siete iscritti, no, dici noi addirittura anche per Ferragosto operiamo sempre quello, questo è quello che mi ha detto un medico. Però io ho aspettato dietro la mano, non mi hanno chiamato. Adesso staremo a vedere, quasi quasi domani faccio una scappatina lì. Suono il campanello perché è chiuso, le parti sono sempre chiuse, no? Però già apro, se sono il campanello già apro. poi già stato messo in contatto con qualche infermiera lì e gli hanno fatto passare per parlare magari con nell'ufficio dove c'è il medico e sentiamo un po' la situazione, come se mi chiamano o se devo ancora aspettare. Vedremo. Sono di arrivare a finire le ferie adesso così, giù. E cosa ci vuoi fare? E d'altronde è così. Purtroppo così ho fra. Da ieri già abbiamo fatto una chiacchierata con Gianfranco di Monteoro, no? Poi c'era Marco e anche Luigi da Ottava, una chiacchierata di un paio d'ore. Ma eravamo un sacco di tempo senza sentire nessuno, Accendevo, non c'era un'anima viva. Precedentemente a questa chiacchierata che ho fatto ad esempio non solo ieri ma anche all'inizio della settimana, sempre con Marco e con Luigi, avevo fatto l'ultima chiacchierata, l'avevo fatta con te. Si può immaginare quanto tempo era passato senza sentire mai nessuno, alle fuori di qualche collegamento di propagazione. Ho da Sassari, nessuno, non si era sentito più nessuno. Però là, cioè, in questo caso la gente esce fuori casa la sera, va a passeggio. Cosa volevo dire? Gianfranco di Monteoro, sai che non mi ricordo chi sia. Gianfranco di Monteoro, sì, è un radioamatore che ogni tanto si fa sentire. Infatti ho visto la portante, quando ho visto la portante l'ho chiamato, chi era? Ha risposto lui. E abbiamo chiacchierato per 2 ore più o meno, dai. Di preciso non lo so, ma all'incirca 2 ore, perché abbiamo smesso che era intorno alle 8, intorno a quest'ora stesso, ma mi sembra che abbiamo iniziato verso le 6 di sera, per cui abbiamo passato tutta la serata così, a baratino, Non lo so, no, forse non lo conosco, conosco un radioamatore di... che parla da lì, da Monteoro, un Monteoro basso però è... però mi ricordo che ha un altro nome, forse non è lui allora. Beh, a Monteoro mi sembra che ce n'è più di uno, forse 2 o 3 anche, perché penso che ci sia anche la campagna di Vittorio che ha i CB, Vittorio Giove, credo che anche lui abbia seguito quelle parti. Lo stesso Claudio non ne ha voglia, perché mi hanno sentito al telefono, mi sembra, sì, al telefono, e non ne ha voglia perché dice c'è troppo caldo e sono in campagna e non ho niente qua. Sì, dice magari un baracchino e non tengo l'ascolto, ma di stare davanti al baracchino c'è troppo caldo e non me la sento. Fin quando non se ne frescava un po' il tempo e non l'avrebbe ripreso. Adesso riprenderà fra un po'. Ma ci dai, qualche chiacchierata la sera, quando inizia a fare buio presto, vedrà che qualcuno rientra alla tanca, come si dice. Sì, è come il figlio Prudio, quello che dopo aver fatto il ribelle ritorna sempre all'ovile. È così, fra, così succede per tutti i CB. Mi ricordo che erano 2 fratelli, uno era bravo e uno era più discolo. Ci era rimasto male poi il fratello bravo, perché per quello un po' discolo aveva preparato non so che, tutta una festa aveva fatto, ti ricordi la storia? Sì. A voi la ricordo benissimo, quello era un po' testa calda e si era allontanato dalla famiglia, se ne era andato, però poi è ritornato e la famiglia giustamente l'ha accolto con grande entusiasmo, con grande piacere, e hanno preparato il più grande porcetto che avevano, il migliore in assoluto per festeggiare il ritorno del signor Prudico. Sì, aveva recuperato una pecorella smarrita, dai, sì. La raccontano sempre, dai, quella storia lì, il paragone lo fanno sempre. Quella è nella storia, già lo credo, che a scuola l'abbiamo studiato un po' tutti, per cui quella ce la ricordiamo. Anche perché è una storia che rimane impressa nella mente della gente, non si può dimenticare, anche perché fatti del giorno se ne sentono tutti tantissimi giorni. E prima o poi ognuno di noi, qualsiasi persona, toglie l'esempio e lo fa notare, lo ricorda, insomma, ecco. Anche in chiesa ho sentito un sacco di preti la utilizzano quella storia lì. Sì, anche in chiesa, è vero, è vero. E sempre quando anche in ospedale, quando viene a fare visita il come si chiama, il prete dell'ospedale, che ogni tanto, ogni pochi giorni passa in giro per i letti dei malati, passa il prete, no? E dunque viene a parlare un po', loro dicono a portare un po' di conforto ai malati, fa piacere giustamente. E qualcuno intanto già lo ricorda anche lì in ospedale. Mi ricordo, io sono stato ricordato qualche anno fa, una quarantina di anni fa, mi ricordo che passava il prete tutti i giorni, poi c'era anche quello che passava con i giornali, c'era una cassettina di giornali e vendeva i giornali, ti ricordi? Sì, certo, ma adesso in questo alla clinica universitaria addirittura ne sono passati due, poi è passata anche qualche donna di quelle che come si chiamano, di quelle persone che vanno in giro per portare un po' di conforto ai malati, e anche quelli sono passati. No, uno di questi, quello era lì, aspetta se ricordo bene, di un paese lontano, adesso non mi ricordo se era di Bessuglia o di Lovera, ma una cosa del genere, addirittura ha regalato il rosario a tutti gli ammalati dell'ospedale. E dentro la scatoletta piccolina ha regalato il rosario a tutti. Questo era un prete di un paese che poi lui predicava sia in quel paese che in un altro paese vicino, però non mi ricordo se era Bessuglia o cosa era, non me lo ricordo, la verità. Però è stato carino, quindi è stato un bel pensiero, ma porta un po' di sollievo. Scusa che non ho suonato il campanello. Ok, vai. Eccomi. Ok. Mi intanto sono molto, sicuramente mi chiamano per la cena, sono già le 8 e 6 minuti, per cui saremo a vedere. Ancora no, non ho sentito nessuna chiamata, posso trattenermi ancora un po' fin quando non mi chiamano. Anche io sono al limite, mi è rientrata la signora con la spesa, quindi tra un po' si mangia. Certo, sicuramente. Anzi, io ho già sentito il rumore dei piatti anche per troppo, nonostante che sono nel piano superiore, dalla tavernetta ho sentito il rumore dei piatti. Va bene, aspettiamo la chiamata, intanto ancora se non mi hanno chiamato significa che non è pronto. Sì, adesso, qualcosa di leggero, anche noi in questi giorni in fede abbiamo un po' esagerato, quindi bisogna darci una sistematina adesso. Andiamoci leggeri. Certo, non è che si può esagerare, no? Cioè, non lo conviene nemmeno, non è uno. Sì, vabbè, può capitare magari che uno si fa una mangiata più grande del solito, però non bisogna esagerare tutti i giorni. Quando uno sta bene già a tavola, non c'è bisogno che si imbottisca ancora di più, per così dire, no? E dicono che uno si deve alzare la tavola con un piccolo appetito, ma non è casa nostra, sicuramente. Infatti, no, quello no, nemmeno io ci riesco sempre quello, con un piccolo appetito no, assolutamente. Però non mi abbuffo nemmeno, ecco, mangio tranquillamente, magari posso riposarmi che so io una mezz'ora e poi magari mi mangio la frutta, ecco, questo già mi può succedere, però non esagero, ecco, non esagero assolutamente, poi non mangio più come prima, adesso mangio la metà di quanto mangiavo prima quando ero ragazzo, adesso ormai c'è l'età e dunque l'età bisogna rispettarla. No, ma anch'io ho tagliato molto, prima la pasta a pranzo e a cena, cioè primo, secondo, adesso invece sto mangiando la pasta a pranzo e la sera mangio il secondo, ma sto benissimo lo stesso. Sì, certo, no, io già mangio primo e secondo, sia a pranzo che a cena, però la quantità non è più come prima. Prima le pasta asciutta per esempio mangiavo un piatto bello pieno, adesso no, adesso cosa me ne mangio? Me ne posso mangiare 150 grammi più o meno, dai. Ma prima magari mangiavo di più, non va bene, che poi 150 grammi non è che siano poi tanto pochi, se consideriamo intanto la mia età. Oggi come oggi, perché poi magari si mangia una fettina, si mangi o una bistecca, quello che capita, quello che fa la mia moglie. Per dire, oggi ad esempio ho mangiato la pasta a Giulio, l'ha fatto oggi mia moglie, e poi ho mangiato un polpettone e un wurstel, di quei wurstel grandi, però non di quelli piccolini, e basta. Poi la frutta non l'ho mangiata nemmeno, pensa, oggi frutta non ne ho mangiato, e io la mangio sempre, ma la mangio stanotte, però stanotte la mangio senz'altro, perché magari stanotte mangio un pochino più leggero, poi mi mangio in ultimo mangio la frutta, una pesca noce. Non so se la sera la frutta è indicata, non lo so, perché tende sempre a gonfiare, a fermentare. Ma io la pasta invece non la sto più mangiando, perché la notte non bruci. Di giorno invece lavori, fai qualcosa, la sera esci e diciamo, i carboidrati riesci a bruciarli. Ma se li mangi a cena, ti rimangono un po', cioè te le assimili tutti, solo per quello. Ma non so se tu hai problemi di peso, ma credo di no. Ma diciamo che non sono magro, ma non sono così pesante. Peso 80 kg, sono alto 1,75 m, non sono molto. Però diciamo che pancia praticamente non ne ho, appena, ma proprio poco. Sì, ma io la frutta l'ho sempre mangiata la notte, la verità, lo so che è più difficile da digerire, ma tutta, anche la verdura, anche l'insalata, sempre così, più difficile da digerire. Però la mangio, grazie a Dio di stomaco sto bene, non ho mai sofferto niente, spero di non soffrire mai niente. Cosa vuoi che ti dica o fa? Anche perché alle volte, ad esempio, una volta alla settimana, immancabilmente mangio la pizza. La pizza la mangio di notte a cena. Sino a questo momento, nonostante i miei 77 anni, fino ad oggi di stomaco sto bene, ho visto che digerisco discretamente, insomma, ecco, non sento pesantezza di stomaco, non sento niente. Speriamo bene, cosa vuoi che ti dica, Fra? Sì, no, anch'io di sera la pizza la mangio qualche volta, specialmente quando scendo in campagna a trovare i miei, allora in genere ci facciamo una pizza, ormai è diventato un appuntamento fisso. Sì, noi tutte le settimane, immancabilmente, qui la pizza è una prassi praticamente, o di giovedì o al limite di mercoledì. Difficilmente è salta. Se è capitato qualche volta che è saltata, magari per motivo qualsiasi così, allora il sabato sicuro si recupera quello che è la pizza che non abbiamo mangiato magari durante la settimana. Questo è scontatissimo, guarda. Il genere del martedì, lasciamo passare qualche giorno per intossicarci dal sabato alla domenica, e poi il martedì scendo in campagna e c'è un giorno lo offro io, un giorno lo offro i miei genitori, insomma, restiamo insieme, dai, un'occasione per stare insieme. Certo, quando sì, ma noi proprio è un sistema praticamente, è un'abitudine, dai, più che altro, non un sistema, ma è una nostra abitudine qui, in famiglia, e tutte le settimane, immancabilmente, o di giovedì o di mercoledì, dipende dal turno, perché anche viene anche mio genero, no? Siccome lui è farmacista e alle volte fa il turno magari di sera, e allora si rimanda o il giorno prima o il giorno dopo, si rimanda. E dunque, immancabilmente, o di mercoledì o di giovedì, quella è immancabile la pizza. Molto, ma molto difficilmente se la saltiamo. E ripeto, se la saltiamo, allora sicura è il sabato. Sicura è il sabato la pizza, non si avrebbe da fare. È così, è un po' il sistema, dai. È un po' come, ad esempio, vabbè, adesso c'è caldo, però di solito il lunedì, di solito io a mia moglie gli chiedo sempre il brodo. Però adesso no, adesso c'è troppo caldo, non è possibile, per cui, ma quando comincia il fresco ti posso garantire che riprendiamo l'abitudine del lunedì il brodo. Mi ricordo da ragazzino, dai, il menù era quello, non so, la domenica la pasta asciutta, poi non so, minestrone, il pollo, il coniglio, c'erano dei giorni quasi prefissati, era così prima. Sì, ma certo, soprattutto le famiglie, le donne dell'età di mia madre, ad esempio, avevano un sistema già stabilito settimanalmente che dovevano fare lunedì un tipo di cena o di pranzo, martedì lo stesso e così via, e tiravano avanti una settimana, sempre cambiando chiaramente, però capitava sempre che per dire di lunedì sempre quella cosa, martedì sempre la stessa cosa e così via, e per cui lo sappiamo che non è un'abitudine, dai, un sistema di vita delle famiglie, perlomeno a casa mia, io parlo quando ero a mamma, dai, era così. E anche qua, però qua variamo molto, non è che non variamo, ma io me lo chiedo io il lunedì, il brodo a mia moglie, ma solo esclusivamente quando c'è fresco, però no, non certamente adesso che siamo in estate, come fai a, anche se poi lo raffreddiamo perché mia moglie fa il frullato di verdure, fa, lo metto in mezzo al brodo che è buonissimo, io lo mangio molto ma molto volentieri. E ci metti anche la pasta o no? Sì, sì, la pasta, sì, sì. Le puntine oppure le stelline, questa cosa, io con la pasta lo mangio, sì. Lo preferisco con la pasta. Aspetta, sono di nuovo aumentate le stazionali, non ho capito perché. A me piace anche lì, come si chiama, quindi tipo cappellini, oppure spaghettini numero 3 tagliati a pezzettini. Anche, a me piacciono, però qui insomma, diciamo che qui preferiscono tipo questo, come si chiama, rosoni, mentre che si chiamano, oppure puntine, io diciamo puntine di grammofono, oppure le stelline, piccoline, quelle cose lì. E a me piacerebbero sempre quello, le bavettine, quelle sottili, tagliate a pezzettini piccolini, quella era un'abitudine di mia madre, a me mi piacciono molto così, con le bavettine, sottili, ma tagliate piccoline, piccoline alla lunghezza sia no di massimo un centimetro e mezzo, due centimetri o fra. E il massimo che riesci a tagliare, perché più piccole non ce la fai. E appunto, infatti è così, solo che è più pratico, sai. Con le stelline ad esempio, o con i rosoni, o con le puntine, quelle più semplici, più pratico, va benissimo così. E mi ricordo che da piccolo facevo i fiocchetti, mia madre, a brodo. Anche quelli si sono fatti, certo, ma sono tutti buoni, ma io sinceramente non rifiuto mai niente, io mangio qualsiasi cosa, per cui non ho, naturalmente ho delle prevalenze per certi cibi che per altri magari, però quando si tratta di mangiare mangio tutto, qualsiasi cosa, ad esempio qui si fa anche spesso l'insalata del riso, qui a casa la mangiano volentieri, io la mangio ugualmente, però non è che mi piace più di tanto, nel senso che non ci vado matto, ecco, però la mangio lo stesso, tranquillamente, senza nessun problema, No, anch'io, sono poche le cose che non mangio, il resto mangio tutto, pensate il riso, normale, minestrone, mi piace addirittura non caldo, quando è bello denso, appena tiepido, sempre con la pasta, è benemite, come si dice. Beh certo, quello sì, va così, in effetti è così. Adesso domani lo so già, domani ne abbiamo già parlato, sicuramente mia moglie prepara la pasta asciutta con le cozze, senz'altro è così. No, riguardo a quello non sono stato mai vizioso, io sono nato in una famiglia che era una famiglia di lavoratori, per cui visti non ce n'era, poi eravamo anche una famiglia numerosa, perché un po' 7 fratelli in tutto, il più grande sono io, adesso vabbè i miei genitori non ci sono più, ma per dirti no, visti non ce n'era, non ce n'era assolutamente. Sì, i miei cieli sono un po' vecchietti, ma ancora, grazie a Dio, me li sta lasciando il Signore. Beh, certo, speriamo che te lo lasciano ancora per tanto, ma tanti anni ancora. E vabbè, purtroppo la vita è così. Ma buona, dai, avrebbe fatto il primo squillo. Dunque bisogna scendere giù per la cena. Io ti ringrazio per la chiacchieratina, è stato un piacere per me come sempre, per cui ci risentiremo presto, almeno spero. Ciao fra, grazie ancora per la chiacchierata, ascolto il Pilarino e dopodiché ti saluto. Ciao! Ok, ti ringrazio, grazie anche a te. Un abbraccio grande, dai, viva la vita, diciamo così. Alla prossima. Alla prossima, a presto, ciao, ciao di nuovo, ciao. Ciao, ciao.